Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Un saluto alla redazione e soprattutto a voi amici e amiche radioascoltatori che ci seguite sempre con tanto affetto nelle 24 ore di CRMP Radio, la radio che si sente e vi assicuro si vede. Adesso potete seguirci anche su www.crmpradio.it oppure potete inviarci un sms al numero che è il seguente 0921, se non vado errato, oppure no 335 5637 251. Scriveteci su Facebook, così insomma interagiamo anche con voi, e perché no, se volete telefonare per qualche richiesta discografica lo potete fare in tutta tranquillità. Tempo uggioso, tempo freddo, sembra di essere in Siberia. Grazie a Dio in Sicilia tutto questo non c'è, un po' di neve c'è stata spruzzata un po' qui un po' lì, ma è critica la situazione al nord Italia e verso il centro, e da stasera il meteo non promette nulla di buono. Ci auguriamo che non ci siano altre vittime, siamo già saliti se non erro a quota 22 deceduti, soprattutto sono i senza tetto che subiscono questo massacro, e c'è ancora una volta la buona fede e l'intervento bonario, devo dire cristiano, di molti sacerdoti che con la Caritas sono intervenuti per sistemare alla meglio e dare un pasto caldo a questi poveri sventurati. Fate la massima attenzione sulle strade, soprattutto di montagna, per il manto stradale che potrebbe essere ghiacciato, e attenzione anche ai voli via mare, insomma non è un momento particolarmente bello da viversi, freddo intensissimo, occhio ai bambini e occhio anche agli anziani che sono insomma le parti più deboli di questa nostra popolazione. Detto questo, ogni tanto mi capita di sbirciare col telecomando su alcune trasmissioni di intrattenimento, cosiddetti talk show. Io li chiamo blateramenti, nel senso che si blatera, però poi non si quaglia nulla. Ieri sera guardando Porta a Porta con l'amico, il buon amico Bruno Vespa, che gestiva al meglio alcuni dati forniti dalla Farnesina per quanto è dal Ministero delle Finanze sulla questa famigerata evasione fiscale. Allora, io sono d'accordo sul fatto che non si debba evadere, perché se no, se il cittadino non paga le giuste tasse, i servizi, e poi tra poco capirete perché sto parlando di servizi, i cittadini non possono usufruire dei giusti servizi. Ma in questo momento, così come stanno le cose, come diceva giustamente ieri sera il direttore del giornale, Sallustri ha detto una cosa, ha fatto una schermata a 360 gradi dove mi trova totalmente d'accordo con le sue posizioni. Cioè non si può chiedere al cittadino di pagare le tasse onestamente quando poi la politica e chi sta vicino alla politica depaupera miliardi su miliardi. In Sicilia abbiamo degli esempi eclatanti come le cattedrali nel deserto, cemento, cemento, cemento, e poi nulla si è realizzato. La stessa cosa dicasi per quanto concerne i finanziamenti pubblici ai partiti. Avete sentito, e ho scritto anch'io su Facebook, che si è immolato in nome della giustizia di Mani Pulite un certo Bettino Craxi, che fu l'unico presidente del Consiglio, pensate, a non abbassarsi le brache in presenza degli Stati Uniti, quindi uomo tosto, sicuramente con le sue colpe, per carità di Dio, ma era un uomo tutto d'un pezzo. Da 40 anni a questa parte non è cambiato nulla, si continua a fregare il prossimo che siamo noi contribuenti da parte di questi partiti famigerati tali che si dividono in partiti e partitini pur di accaparrarsi fette importanti di denaro del nostro portafoglio. Per cui fatta questa premessa per far capire a chi ci ascolta, ma soprattutto ai signori politici, che qui nessuno è fesso, dicono i napoletani. Fatta questa premessa devo ringraziare e salutare un nostro primo sponsor, che è il Psigro Palace Hotel. In un momento di questo freddo intenso non si fa magari una camminata nelle Madonie, si ferma a Castelbuono, che è un paese meraviglioso, pranza o cena lì, poi decide, visto il freddo, visto la viabilità che non è ottima, beh, mi fermo stasera a dormire. Dove vado a dormire? Dove vado a cenare? Ma semplicemente al Psico Palace Hotel di Castelbuono. Pensate, un albergo a 4 stelle, super accessoriato, con frigo bar per chi avesse le esigenze in camera da letto, con televisione in camera, vista straordinaria sul Parco delle Madonie, parcheggio privato, quindi non avete di che preoccuparvi per la vostra autovettura, un bar servizio H24 e poi una sala ricevimenti per il vostro pranzo cena, veramente di cucina regionale, nazionale ed internazionale. Quindi salutiamo ancora il Psico Palace Hotel a Castelbuono, albergo, vi ricordo, a 4 stelle. Desideravo anche ringraziare, e perché no, un altro sponsor importante, perché oggi si parla di energia a 360 gradi, si parla di energia alternativa, si parla di energia elettrica, le care bollette. Allora cosa bisogna fare per tagliare queste bellette bollette dell'Enel? Non è che ce le dobbiamo avere con l'Enel, no, però arrivano delle bollette un po' esose, perché voi sapete che l'energia elettrica in Italia viene erogata non soltanto con l'energia idroelettrica, non soltanto con l'energia del carbone o dell'olio combustibile, ma viene erogata aumenta anche e soprattutto con il gasolio. Quindi più aumenta il gasolio, più aumentano le nostre bollette. Allora, per evitare che un soggetto a casa sua gli arrivi una bolletta di 250 euro perché si fanno le docce, gli shampoo, i phon, lo stirare, la lavabiancheria, eccetera, bisogna telefonare al numero verde 800 111 341. Chi vi risponde dall'altra parte del telefono? Risponde un'azienda leader nel settore, dopo l'Enel viene questa azienda, ed è la media elettra di Badalamenti, Angelo e C. Dove lo trovate? In via Ugo La Malfa 61 BCD a Casteldaccio, in provincia di Palermo. Perché vi parlo di questa azienda? Perché questa azienda, voi telefonate, vengono a trovarvi, vi fanno il preventivo, vi montano i pannelli solari, i cosiddetti fotovoltaici, e con un sistema che si chiama SunPower vi consentono non soltanto di tagliare l'energia elettrica sulla bolletta vostra, quindi di non pagare più quei soldi che pagate fino ad oggi, ma addirittura vi rimborsano i soldi dopo un anno di quello che avete investito. E quindi è una, come dire, c'è un do ut des, diciamo in latino, c'è un avere e un dare. Ricordate questa azienda, media elettra di Badalamenti, con il sistema SunPower, sono a vostra disposizione al numero verde 800 111 341. Fatta questa promessa, lì nella regia per una breve pausa musicale, ritorneremo in studio a parlare del Sarafene Giglio, di quello che la Fondazione sta facendo oltre i confini dell'Europa. Pubblicità. Ristorante Pizzeria Kenzia al Trappito da Nicola. Per una cena indimenticabile con piatti particolari, decorati con estro e fantasia. Per la pizza con gli amici, gustosa e ricca di ingredienti di qualità. Nel centro storico di Cefalù, in via Bordonaro 96. Per prenotazioni e info 0921 42 38 01. Ristorante Pizzeria Kenzia al Trappito, con suggestiva terrazza sul mare. Riapertura da venerdì 10 febbraio. Kenzia al Trappito vi ricorda che anche d'inverno potete godere lo spettacolo del mare con la terrazza coperta. A Cefalù, la mostra fotografica dello studio di Stefano, Come si custodisce un sogno. Dall'11 febbraio al 14 febbraio 2012, presso Villa dei Melograni. Come si custodisce un sogno. Mostra fotografica dello studio di Stefano a Cefalù. Tutti i giorni, dall'11 al 14 febbraio, dalle 16 alle 22, Villa dei Melograni. La mostra terminerà con la cena di San Valentino, prenotando allo 0921 42 25 17. Studio di Stefano Foto e Video. Via Mustafa 33 a Castelbuono. Telefono 0921 67 62 49. Lasciati stupire. Rinnovazione totale da Brass. A Cefalù oggi trovi mobili, accessori moda, regali con sconti fino al 70%. Eliminiamo tutto perché rinnoviamo tutto. Oggi da noi fare affari con stile è di moda. Regalati solo, regalati il meglio. Brass è sempre con te. Dall'accessorio moda, dai mobili agli arredamenti di gusto, dai quadri all'elettrico. Brass, rinnovazione con sconti fino al 70%. A Cefalù, in corso Ruggero 117. Ci trovi anche su Facebook. Arredi Madonia Vincenzo e Figlio, quello del Ghirigoro d'Oro. Oltre 40 anni di esperienza e ricerca. Piazza San Leonardo 7 a Castelbuono. Stuzzico, fast food pizzeria. A Cefalù, pizze piccole e familiari. Primi e secondi piatti veloci, da consumare sul posto o da asporto. Insalate fresche e fantasiose. E le specialità: panini, piadine, kebab e piatto kebab. Panini con hamburger e con porchetta. E il gelato soft. Da Stuzzico, menù fisso a base di carne 12 euro, di pesce 15 euro. Stuzzico e anche rosticceria Mignon, catering. Stuzzico è ideale per festeggiare compleanni e ricorrenze particolari. Stuzzico, fast food pizzeria, anche servizio a domicilio. Via Roma 39, telefono 0921 42 35 42, Cefalù. Per la tua pubblicità su CRM, telefono allo 0921 423 456. E allora, rieccoci qui dopo questa pausa pubblicitaria e la trasmissione oggi è concentrata esclusivamente su un progetto straordinario, da una intuizione meravigliosa che ha avuto il Sanraffaele Giglio, la fondazione stiamo parlando, nella persona che include poi tutti i tecnici, infatti qui in studio abbiamo altre tre persone che poi presenterò, il dottor Cirillo che è stato il fomentatore, l'ideatore, e poi di concerto con tutta la sua leadership, insomma, e i suoi collaboratori sono riusciti, pensate, ad arrivare fino in Burundi. Dovremmo avere in diretta radiofonica il dottor Cirillo? Abbiamo in diretta radiofonica il dottor Cirillo? Pronto? Pronto? Pronto? Sì, buongiorno. Dottor Cirillo, buongiorno, ben arrivato tra noi. Lei non sa quanto siamo felici di ospitarla in trasmissione, dottor Cirillo. Allora, intanto le chiedo come sta. Bene, benissimo, grazie a lei. Si sente dalla voce, è un po' affaticato perché l'anzianità comincia a farsi sentire, Presidente. Allora, Presidente, noi oggi abbiamo voluto fare questa trasmissione su un progetto straordinario che la Fondazione da lei egregiamente rappresentata ha voluto porre in essere in una collaborazione con il Burundi. Come è nata questa idea, Presidente? Ma è nata da un fatto occasionale, nel senso che avevamo del materiale, quando sono arrivato io qui in ospedale 3 anni fa, avevamo del materiale nei magazzini inutilizzato perché era stato sostituito da nuove tecnologie, e quindi l'idea fu di trasferire a chi lo potesse utilizzare ugualmente, e da lì è cominciata, perché poi l'abbiamo mandato in Burundi come fatto umanitario, e da lì il presidente del Burundi ha chiesto di incontrarci a Roma alla conferenza della FAO del 2010, ci ha invitati ad andare in Burundi a vedere cosa succedeva, e da lì abbiamo scoperto che esisteva questa struttura, una struttura finanziata dalla Regione Sicilia, un'opera incompiuta però, purtroppo devo dire, e da lì abbiamo preso l'impegno di completarla grazie al sacrificio dei nostri tecnici che sono andati diverse volte, lavorando sicuramente in condizioni disagiate, sicuramente con uno spirito di sacrificio che neanche io mi sarei aspettato. Hanno dimostrato una passione, un interesse per questa storia e sono riuscito a portarla a termine, come lei saprà, proprio in questi giorni. Forse c'è Cefalulli in studio, gli altri, sia Nancini che D'Alessandro, sono gli altri due operatori che stanno tornando in questo momento a Bruxelles, dopo più di un mese che sono stati là a lavorare per l'ennesima volta, quindi sono riusciti a completare tutte le opere che mancavano, perché oggettivamente mancava tutta l'impiantistica, l'acqua e la luce, dico sempre, erano a 20 km, in un paese del genere le condizioni di lavoro e il supporto logistico che si può avere sono praticamente inesistenti, quindi il loro sacrificio è stato veramente importante. Sono riusciti a portare a termine quello che è forse il passaggio più importante, il completamento di tutta l'opera. Adesso è un manufatto funzionale e funzionante che speriamo di utilizzare dal punto di vista sanitario a brevissimo, perché siamo in attesa del permesso del Ministero della Salute. Devo dire che nel frattempo però degli altri operatori invece sanitari sono stati in altri due ospedali, sono Cibitoca e Mabai, dove hanno dato il loro apporto sanitario, ostetriche, infermieri, qualche ginecologa, quindi l'operazione del Burundi è andata. Ecco Presidente, la fermo sì. Un secondo, perché a prescindere poi dell'impegno fattivo da parte della Fondazione, dei tecnici che ringraziamo perché danno lustro chiaramente alla nostra regione, alla nostra Cefalù, alle nostre Madoniere, sì. Che se essere presenti lì vuol dire veramente essere a disposizione dell'intera umanità, e di questo vi ringraziamo. Ma io desideravo ringraziarla personalmente perché faccio testimonianza diretta di quanta sensibilità possa avere il Presidente Cirillo quando pone in essere delle situazioni, e l'intervento della sua persona è sempre particolarmente gradito, perché è una persona veramente straordinaria. Presidente, chiusa questa parentesi. Non esageri, perché sennò gli ascoltatori spengono la radio, cambiano se canale. Lei mi consente, se lei mi consente le testimonianze mie, le gestisco io, no, e quello che dico lo dico so, col però cuore. Mi, la battuta me la lasci passare. No, ma prego, dico, certo, ci mancherebbe. Torniamo a parlare del Burundi, perché sì. Questa è la trasmissione volta a parlare di questo nuovo che sta crescendo in questo paese, per molti aspetti da lei citato prima, disagiato. Quali sono le priorità, Presidente, all'interno di questo nosocomio? Ma le priorità sicuramente saranno, ed è paradossale in un momento in cui a noi vorrebbero chiudere il punto nascita, così avremo un altro argomento, sicuramente un punto nascita, un'area pediatrica e quindi un ospedale materno-infantile. Perché? Perché l'esigenza maggiore là sicuramente per l'altissima mortalità infantile, neonatale e anche materna postpartum, sicuramente è quella. Abbiamo visto troppe tragedie, abbiamo visto troppi bambini morire. Purtroppo devo dire tragicamente non per malattie, li abbiamo visti morire per fame, questa è la cosa incredibile, nel senso che io dico, prima di tutte le tecnologie di fare grandi interventi, probabilmente la partecipazione anche con un pentolone di riso supporta anche quel tipo di malati, che sono malati molto spesso che come problema principale proprio hanno quello alimentare. Abbiamo visto, là c'è Vincenzo Lombardo mi pare, sì, è appena arrivato. Abbiamo visto insieme a lui e altri due operatori quando siamo andati la prima volta, scene incredibili, devo dirle, scene incredibili che ci hanno segnati, vedere centinaia e centinaia di bambini agonizzanti tra i 0 mesi, ora ci vuole, e i 5 anni di vita, agonizzanti, abbandonati a se stessi, senza nessuna assistenza, senza nessuna possibilità di uscire da questa agonia e quindi destinati alla morte, è una cosa che colpisce, perché poi ti accorgi che facendo poco veramente riesce a dare delle risposte importanti. E questo, devo dire, al di là della mia visione, mi ha colpito favorevolmente, che è stato condiviso da tutti, ognuno ha dato un contributo, ma non solo dalla Fondazione, abbiamo avuto qualche scuola, abbiamo avuto, ma io l'altro giorno anche a Caltanissetta, una conferenza sugli immigrati, ho avuto attestazione di partecipazione da tanti, da privati e dal pubblici. Tra i container che abbiamo mandato, una volta abbiamo mandato container con materiale raccolto in tutti gli ospedali della Sicilia, in qualche struttura privata, qualche ecografo donato da qualche medico privato, cioè la sensibilità sicuramente c'è. È una sensibilità che ovviamente va organizzata per tradurla in risposte che sì. Hanno poi un effetto concreto sulla popolazione sulla quale si va a agire. Lì si può fare tantissimo. Noi partiamo per quello che è ovviamente il nostro interesse primo, che è quello sanitario, però ovviamente non ci possiamo fermare a quello, e abbiamo visto orfanotrofi o situazioni limite per altri versi che possono essere indirettamente con la nostra presenza là in questo ospedale chiaramente supportati. Quindi le faccio tirare un sospiro, Presidente, perché lei è un fiume in piena, come giusto che sia, da parte di una persona che ha delle sensibilità e li pone in essere. Io qui nella brochure che avete fatto voi, molto bella devo dire, c'è scritto: sostieni i nostri progetti per il Burundi, fai una donazione. Io darò l'IBAM, se mi consentite di farlo, è possibile? Sì, lo faccio, però vorrei aprire una parentesi. Prego. Tutta questa operazione a oggi è stata avviata e portata avanti grazie alla disponibilità di un fondo di cooperazione internazionale della Regione Sicilia, che ha stanziato 200.000 euro per farci completare questo ospedale, che erano dei soldi che potevano essere destinati soltanto a quello, se no non potevano essere utilizzati. Lo spiego perché certe volte magari nell'immaginario sembra che noi storniamo delle risorse che andrebbero investite qui e le utilizziamo in un altro posto. Non è così, quello è un capitolo speciale che appunto è dedicato e può essere utilizzato solo all'estero, e ne abbiamo approfittato appunto per completare quell'opera. Dopo appunto anche tanti donatori ci sono venuti incontro ovviamente, e quindi va benissimo pure che passi l'IBAN, ma noi pensiamo di continuare a operare sempre utilizzando questi fondi che fanno riferimento alla cooperazione internazionale, non per inibire chi vuole dare un apporto, che è assolutamente benvenuto, però per spiegare un attimino il percorso nelle grandi linee. Poi ovviamente qualsiasi risorsa investita in quel posto, immaginate che una goccia lì disseta tantissima gente, no? E sfama tantissima gente, quindi ben venga pure che lei faccia passare l'IBAN, però questo come specifica. Presidente Cirillo, io resto basito, ma piacevolmente basito nel sentirla, e non ho dubbi che lei parli col cuore, perché conoscendola personalmente e avendo avuto esperienza sul suo modo di operare, ritengo che questa straordinaria fruizione che lei ha all'interno la trasmetta ai suoi collaboratori, e di concerto con tutti fate delle cose molto belle per l'umanità. Poco conta se si fa in Italia o si fa in Burundi, l'importante è che qualcosa si faccia per i nostri simili. Vuole aggiungere qualche altra cosa prima di salutarla, sì, Presidente? Prego. Sì, se mi permette intanto un ringraziamento. Certo che glielo consento. Un ringraziamento, no, perché questa è più una nota interna, è chiaro, un ringraziamento a tutti i nostri che si sono adoperati e che si continuano ad operare, perché mi creda, intanto la fase di programmazione per queste cose è abbastanza complessa, e quindi un po' tutti gli operatori lasciano da parte quello che alla fine della giornata è stato il lavoro qui per dedicarsi in esterno anche a questa idea del Burundi, e poi tutti quelli che si sono sacrificati direttamente, là appunto c'è Folù che diciamo, è stata la colonna portante dell'operazione di completamento, ma anche gli altri, Zancini, Alessandria e tutti, Simona che si occupa, quindi devo ringraziarli assolutamente tutti, grazie per avermi concesso questo finale, ecco. Presidente, era il minimo che io potessi farle, perché ritengo che una persona per bene, una persona che ha delle sensibilità, deve essere ascoltato ed aiutato nel proprio lavoro. Da parte nostra sicuramente ci sarà sempre il microfono aperto, perché quei piccoli che siamo riusciamo a dare, voglio dire, voce a chi vuole esternare le proprie sensibilità. La mia persona è a totale disposizione del San Raffaele, già lo sa l'amico Lombardo, lei lo sa perfettamente, perché siete gente straordinaria che durante l'arco della giornata lavorate anche per noi e lavorate anche bene, Presidente. La ringrazio ancora. Grazie, per il suo intervento. Buona giornata, buon lavoro. Grazie altrettanto a lei. Era il Presidente Cirillo della Fondazione San Raffaele Giglio. Vi do intanto l'IBAN per chi volesse fare una donazione, poi parleremo un attimo di pubblicità e poi al rientro presenterò gli ospiti che sono già arrivati finalmente in redazione. In redazione è arrivato finalmente qualcuno, insomma, che è un personaggio, quindi si fa attendere, le persone per bene si fanno sempre aspettare. Allora, il numero IBAN per chi volesse mandare dei fondi, anche bastano 2 euro, 3 euro, 5 euro, basta l'azione, non è il quantitativo che conta, è il seguente: I come Italia, T come Torino, 32 Livorno 03019432600000008 00055 03. sostieni i nostri progetti e la viva voce del presidente della Fondazione San Raffaele Giglio, che stanno facendo di concerto con i suoi collaboratori, e tra questi anche l'amico Vincenzo Lombardo, che tra poco vi presenterò, e altre due stupende persone che sono il signor Cefalù Vincenzo, e gli do il benvenuto, e la dottoressa Simona Amenta, che è qui sulla mia destra. Tra poco, dopo aver detto qualcosa di pubblicità, bisogna ringraziare gli sponsor, altrimenti questo programma non può andare avanti, ve l'ho detto un sacco di volte, riprenderemo alla grande questa puntata. Grazie ancora Presidente Cirillo per essere intervenuto, e auguriamo a lui e al suo staff un buon lavoro. Parliamo di cibo, pesce fresco. Uno che si trova in giro per la Sicilia non può esimersi, se si trova da parte di Termini Imerese soprattutto, di portarsi a casa, perché no, perché cucinano anche per voi. Se vostra moglie si stanca, si arrabbia, dice oggi non voglio cucinare, non ci sono problemi, bisogna andare al ristorante del Sapore di Mare, vi comprate tutto quello che necessita, i sughi da mettere nella vostra pasta, i secondi piatti stupendi, tutti a base di pesce, ai Sapore di Mare, dove? A Termini Imerese, in via Lungomare Cristoforo Colombo. Volete pranzare o cenare, la stessa cosa, con i frutti di mare ricci, crostacei cotti e crudi, pesce fresco, vendita frutti di mare e crostacei, quindi trovate tutto. Vi ricordo, l'appuntamento è Lungomare Cristoforo Colombo, ristorante Sapore di Mare a Termini Imerese, telefono 091 811 447. Detto questo, mi pare che c'era qualche altra cosa da dire. Sì, allora si avvicina l'estate e cosa bisogna fare? Bisogna rilassarsi, col caldo non è che si può lavorare tanto. Allora, il venerdì, sabato e domenica intanto andate verso la provincia di Messina, vi fermate ad Acque Dolci, trovate un centro meraviglioso che si chiama Il Geranio, c'è il ristorante, c'è la pizzeria, la piscina, ludoteca, campo da calcetto e mari, pensate, a 20 metri, quindi cosa fate? Arrivate lì, vi affittate la stanza venerdì, sabato e domenica con i vostri figlioli vanno a giocare nella ludoteca, seguitissimi, a voi piace giocare a calcio mentre vostra moglie fa il bagno in piscina? Non ci sono problemi, c'è il campo di calcetto e voi vi fate il bagno in piscina. Oppure volete andare a mare? Bene, si apre il cancello, a 20 metri c'è il mare, tutto a posto. La sera, beh, cena a base di pesce se volete, o la pizza al forno. I primi piatti meravigliosi, i gamberetti e pistacchio, ragazzi, spaghetti con gamberetti e pistacchio, pesce e spada e rigrigliata di petto, non mi è già venuta fame. Oppure se volete una bella pizza al forno a legna, beh, insomma, il Geranio è il nubisulta. Non vi dico altro, andate al Geranio, lo trovate ad Acque Dolci, in contrada Buffona Marina, accanto al campo sportivo ad Acque Dolci. Mi raccomando, andateci e restateci, e poi quando ci incontriamo mi dite come siete stati. Buon divertimento! Linea alla regia, pausa musicale, al rientro parleremo con gli ospiti. Una vasta scelta di prodotti, assortiti reparti di frutta, carne e formaggi e salumi. Offerte periodiche, tante idee e tanto risparmio. Il supermercato PAM Ferdico di Cefalù premia la tua spesa. Ogni 20 euro di spesa partecipi all'estrazione di fantastici buoni acquisto. Da 200 euro, 400 euro e 700 euro. Estrazione 29 febbraio 2012. Supermercato PAM, via Cirincione 62 Cefalù. Telefono 0921 420 167. Un'atmosfera da favola. Le calette sale eventi. Una terrazza mozzafiato sul mare del golfo di Presidiana, Cefalù. Le calette sale eventi. Per festeggiare matrimoni, battesimi, cresime, lauree e qualsiasi altro evento importante. Con terrazze e sala vista mare che possono ospitare fino a 300 persone. E dove la professionalità dello staff si sposa con il buon gusto. Vieni a visitarci. Le calette sale eventi. Contrada Presidiana, Cefalù. E i sogni diventano realtà. Incredibile, strepitosa offerta scacciacrisi al ristorante pizzeria Ron e Salvo. Occhio, da oggi tutte le pizze consumate al tavolo verranno scontate del 50%. Il risparmio inizia da noi. Mangiare bene spendendo poco. Info e prenotazioni 091 81 40 159 oppure 347 59 62 101. Ristorante pizzeria Ron e Salvo, contrada Buonfornello, Termini Imerese. Hobby Garden, piante ornamentali, piante da frutto e da orto, attrezzature agricole, hobbistica per giardinaggio, giochi d'acqua e accessori, programmatori e raccorderia per irrigazione, terrici universali, sementi per tappeti erbosi. Hobby Garden di Cova Salvatore, via Montessori, cortile 3, contrada Pacenzia, telefono 0921 92 17 51 a Cefalù. Hobby Garden vi ricorda i vivai Cova, a Campo Felice di Roccella, manutenzione di parchi, giardini, residence, prati, contrada Pistoletti. Costa Vecchia, strada statale 113, Campo Felice di Roccella. Telefono 0921 428 927. Vivai Cova, di Fabio Cova. La convenienza di acquistare da chi produce. In questo periodo offerte eccezionali. Motosega alpina da potatura 180 euro. Piante da frutto, ulivi e agrumi di prima scelta 5 euro. Triciclamini con vasi in coccio 10 euro. Ricordate, tutto da Hobby Garden e Vivai Cova. La genuinità ha un solo nome. Polleria Rosticceria San Salvatore di Caccamo e Catanzaro. Troverai carni bianche di ottima qualità, dai dattini ai polli alle quaglie. Una scelta unica e gustosa. E ancora i polli disossati e rollò di pollo. E se non hai tempo per cucinare, proprio accanto trovi la rosticceria con polli allo spiedo, accompagnati da deliziose patatine fritte da gustare in un attimo. Ricorda, Polleria Rosticceria San Salvatore di Caccamo e Catanzaro. Strada statale 113, numero 4753, contrada Pietra Pollastra, vicino al passaggio a livello di Cefalù. Per la tua pubblicità su CRM, telefona allo 0921 423 456. Eccoci in diretta, vi ricordo che sto ascoltando Carta e Penna, programma condotto in studio da Filippo Glorioso, va in onda ogni giovedì da mezzogiorno alle 13.15, in differita domenica invece lo trovate alle ore 10.30 circa. Alla parte tecnica sempre Simone Brancato, mentre io torno a presentarvi gli ospiti, prima non li ho fatti salutare perché avevamo l'incombenza della pubblicità in radio e della musica, adesso ve li presento di nuovo. Dunque abbiamo il signor Cefalù Vincenzo, che ringrazio per essere venuto ed è uno dei tecnici che è andato a porre in essere l'opera vera e propria, poi ne parleremo. Grazie anche alla dottoressa Simona Menta, che è psicologa ma che fa parte integrante di questo progetto. Invece alla mia sinistra, mi duole dirlo, ma è alla mia sinistra, insomma, c'è il dottor Vincenzo Lombardo. Se la regia apre il microfono al dottor Lombardo, grazie. Grazie Angelo. E allora, il dottor Lombardo, a parte insomma viabilità, piogge eccetera, mi è arrivato col patema d'animo perché si rischiava che non arrivasse più. Ma conoscendo, ma penso pure qualche multa perché ho parcheggiato. Ah, bene, bene, complimenti dottor Vincenzo. Allora Vincenzo, noi ci diamo del tu fuori. Facciamo del tu, e io ti ringrazio sempre perché sei sempre molto carino nei confronti del Raffaele. Ah, stiamo scherzando, solo merita. Apri sempre il microfono alla tua trasmissione, l'ho fatto più volte a quelle che sono iniziative del Raffaele, sia dal punto di vista sanitario sia dal punto di vista umanitario. E anche il CRM con Angelo Arduino è sempre attento a quelle che sono le vicende che riguardano l'ospedale di Cefalù. Ma sai che c'è, il discorso è il seguente: io non amo fare tutto nel bonfascio e non mi piace criminalizzare un'intera struttura. Ci possono essere, come parlavamo prima fuori onda con gli amici che sono sulla mia destra, con il signor Cefalù e la dottoressa Menta, sulle tematiche che un medico comunque deve affrontare, perché un medico non è un robot, ha i sentimenti, ha una famiglia, ha i genitori, ha i figli, ha la moglie, quindi si carica anche di tensioni familiari che poi viene a estrinsecare, non dovrebbe essere così, ma viene a estrinsecare in ospedale. Ma io ti posso un attimo interrompere? Prego. Perché siccome la radio, come il motto di questa radio, si sente e si vede. In questo momento ci stanno vedendo. Ci stanno vedendo su internet, sì. Le immagini degli ultimi interventi che Vincenzo Cefalù e altri due tecnici hanno fatto in Burundi, nell'ospedale di Ruigi. Vedi, quello che vedono i nostri amici di casa, che purtroppo chi ci sente non può avere la stessa possibilità, però glielo possiamo descrivere, è l'insegna Hopital che è stata messa proprio nell'ingresso dell'ospedale, ed è il momento in cui i nostri tecnici stavano appunto montando questa bella insegna, che è arrivata lì con un container dall'Italia e che riporta il logo del San Raffaele Giglio, quindi un senso di appartenenza anche di questo ospedale all'azienda San Raffaele, è il logo della regione mi siciliana. Mi sorge spontanea una domanda, Vincenzo, poi facciamo il giro degli altri ospiti. A parte l'impatto umano, no? La sensibilità di incontrare persone che sono diverse da noi perché non hanno le nostre stesse potenzialità, da parte della popolazione che tu hai contattato in quel momento, con cui sei entrato in contatto, c'è questo senso di riconoscenza nei confronti della Sicilia in generale, dell'Italia in generale, ma in particolare del San Raffaele? Qual è stata la tua impressione nell'impattare con questo popolo straordinario, dobbiamo dire anche? Beh, insomma, loro non sanno se siamo siciliani, italiani. Siamo italiani. Sì, sì, siamo l'uomo bianco che è lì. Capiscono che chi va lì va comunque per dargli una mano. quindi sono sempre molto accoglienti, molto sorridenti, ti circondano. Quando sei in un posto, in un paese, scendi dalla macchina e ti arrivano migliaia di bambini che escono da tutte le parti che tu prima non vedevi, quindi c'è un affetto, loro vogliono essere aiutati. Solo che il problema è che questo territorio, questo paese è veramente indietro, tanto indietro, e quindi non è semplice poter portare un contributo, anche perché le distanze sono notevoli e quando ci si sposta dall'Italia all'Africa i problemi sono non di poco conto. Enormi, sono enormi. Ci sono diverse associazioni che operano all'interno di progetti di cooperazione internazionale che lavorano lì in Burundi da tantissimi anni. Però rispetto a quelli che sono gli investimenti anche economici che si fanno e quello che poi si vede, c'è veramente un po' di differenza, purtroppo. Allora, il dottor Lombardo, oltre a essere un giornalista, insomma, conclamato, ma è anche il portavoce ufficiale del Sarafe Regilio ed è il capo ufficio stampa di, sì, diciamo che abbiamo, di questo nosocomio, abbiamo, di questa fondazione. Di questa fondazione, sì, abbiamo sposato questa iniziativa Sarafele di Cefalù nel 99-2000 con l'allora deputato e sindaco di Cefalù Simona Vicari che ci ha creduto e si è battuto per fare a Cefalù il San Raffaele, anche allora con l'appoggio di Gianfranco Micichè, e quindi è nata questa esperienza anche per salvare l'ospedale di Cefalù da quello che poteva essere una fine non desiderata, non desiderata dal territorio, perché insomma era un ospedale a 80 posti letto. L'ospedale San Raffaele poi ha deciso comunque di investire in Sicilia, si è fatto questa struttura, una struttura che ha dato grande soddisfazione all'intero territorio, che è diventato comunque centro di grande interesse e di attrattività da parte di tutta la Sicilia e anche dell'Italia meridionale. Questo è un fatto importante che va comunque riconosciuto a chi in questi anni a vari livelli ha lavorato la Fondazione San Raffaele, sia per la parte medica, sia per la parte tecnica, sia per la parte amministrativa. Quindi questo è quello che è stato fatto finora e speriamo che si possa proseguire su questa strada. Allora, prima domanda, naturalmente adesso facciamo parlare la parte tecnica, perché insomma sia Cirillo il presidente vi ha fatto tantissimi elogi, perché insomma siete voi che poi materialmente costruite l'opera, seguite le fasi di progettazione e in tempo reale manualmente proprio, oltre che col cervello, perché dovete allocare delle cose e sistemarle in un certo modo perché poi funzionino, ma tecnicamente siete voi che poi vi occupate sul territorio della posa in opera di queste strutture. Sì, sì. L'impatto, la prima volta che tu sei atterrato in Burundi e sei entrato a contatto, l'hai visto magari in televisione qualche volta, no? Dei filmati fatti su Geo Ngeo, eccetera, su queste popolazioni indigene. La tua impressione quando sei arrivato proprio sul posto, qual è stata? Allora, un'impressione paurosa, paurosa. Mi è sembrato proprio di ritornare indietro più di 50 anni di ritornare indietro. Tutta quella miseria che ho visto lì, ed ero in prossimità dell'aeroporto e ancora mi dovevo internare per andare a vedere. Detratto, sì. Allora tutto quello che vedevo io mi ricordo più di 50 anni fa e ancora una miseria mai vista, impensabile. Tutto quello che si vede nelle fotografie, nei filmati, e se uno non è lì di presenza non può descrivere quello. Senti, tu qual era il tuo mandato vero e proprio? Di cosa ti occupavi? Allora, il mio mandato era di completare tutto il blocco operatorio per quanto riguarda le definizioni di tutta la pavimentazione, la piastrellatura, l'impianto dell'acqua, tutto questo. Ti coadiuava qualche personale autoctono del posto, oppure no, lavoravi con tecnici italiani? No, siamo partiti noi in tre, lavoravamo insieme lì soltanto la manovalanza per lavorare, che neanche non riusciva neanche a capire quello cosa stavamo facendo. Che ti porti dietro di questa esperienza? Cosa ti è rimasto dentro? Un'esperienza bellissima che ci vorrei di nuovo ritornare, bello bello, e un'esperienza mai vissuta. Io dico, prego, non ho certo potuto interagire, ci mancherebbe. Io apro il microfono, ma non lo apre, quindi parlo da te. Posso dire che chi va in Burundi, sì, fa un sacrificio personale non di poco conto, perché non tutto quello che tu c'hai nella tua casa bella nel mondo occidentale, dal telefono, dal cordless al telefonino, al telefono al televisore, al letto, sulle, insomma, non c'è. Cioè, no, tu no, sei... si abbandona tutto, tu tutto sei... si abbandona. Tu arrivi in questo posto in cui non hai più nulla di quello che era la tua vita quotidiana e ti devi abituare a stare come 40 anni fa, 50 anni fa, quindi hai il letto in ferro, una stanza molto semplice, spartana, con un piccolo lavandino, non c'è sempre l'acqua calda. No, neanche quella fredda c'è, se per questo è anche quella fredda. Lui dice non c'è, guarda. Scusate, vi faccio una parentesi, perché chiaramente per gli uomini può essere relativamente più facile potersi calare in quei momenti, ma per una donna occidentale vivere in quel contesto non mi pare che... Dottoressa Amenta, invece lei è la referente al progetto, spieghiamo cosa significa ai nostri radioascoltatori. Sì. Io dall'inizio del progetto mi occupo della gestione logistica e amministrativa, sì, del progetto, di organizzare le missioni dei tecnici, e quindi il mio contributo è andato dall'organizzazione della partenza dei container dall'Italia per il Burundi, all'organizzazione dei viaggi, e seguo l'iter amministrativo per quanto concerne le autorizzazioni ministeriali. Lei è stata anche in Burundi? No, non sono stata, ecco, in Burundi, spero però ci sia la possibilità per me di andarci. Secondo lei, rispetto ai colleghi maschi, ognuno nel proprio specifico, sì, lui per quanto attiene la parte della stampa, lui la parte tecnica, secondo lei una donna in più, io so le sensibilità femminili, perché ho avuto una mia carissima amica che è andata a fare la missionaria in uno di questi posti straordinari come geografia, straordinari come scenografia, ma sicuramente non belli, perché poi si vedono delle carenze strutturali, ma soprattutto umane, che sono paurose. E lei mi disse una frase emblematica: la bellezza di quei bambini non consiste nel colore, nell'altezza, nei denti bianchissimi, devi guardarli negli occhi. Devi guardare negli occhi, lì ti trasmettono tutto il calore e l'amore possibile che l'Africa, soltanto l'Africa, riesce a darti. Quindi si è occupato di questo progetto, l'ha seguito in itinere. Sì, cos'altro facciamo? La gestione, volevo puntualizzare una cosa. Lei diceva, appunto, faceva riferimento alla difficoltà per una donna di inserirsi in un contesto un po' più complesso della realtà a cui siamo abituati. Sicuramente. E gioca un ruolo fondamentale la motivazione di ognuno. Il presidente, il dottore Cirillo, tutti noi ci siamo veramente entrati dentro il progetto, quindi siamo abbastanza coinvolti, e quindi la nostra motivazione nel realizzare, nella possibilità di riuscire a fare effettivamente quello che ci siamo un po' prefissati, sicuramente è alta. Quindi l'obiettivo, il nostro obiettivo è questo, e non molliamo fin quando non ci riusciamo. E scommettere che vogliamo andare in Africa anche noi. Sì, sicuramente. Questo è importante. Sicuramente. Grazie dottoressa. Prego. Torniamo un attimo a Vincenzo, perché a differenza della parte tecnica, della parte femminile, Vincenzo è un personaggio un po' particolare, nel senso è un uomo di cultura, è un uomo, insomma, che è stato vicino a personaggi di altissimo bordo politico, ha vissuto all'interno dell'emiciclo. L'emiciclo, per chi non lo sapesse, è i posti dove si siedono i senatori, i deputati, eccetera, quindi ha contatto veramente col gota. Ma trovarsi così spiazzato dall'alto di cose nobili, insomma, di avere delle sensibilità diverse a contatto diretto con la nuda e cruda realtà di un posto che è depauperato di tutto, mi pare che ce ne passi di acqua sotto i ponti. Cosa è cambiato in te, Vincenzo, con questa esperienza? Ti aiuta a ritrovare un po', diciamo, quello che tu perdi, a trovare un po' te stesso, perché quando sei, diciamo, nel ritmo frenetico del lavoro quotidiano, tra un volo, una riunione, una seduta del Senato, una conferenza stampa del Presidente della Regione, poi sul San Raffaele, poi corri dietro il giornale, quindi il ritmo frenetico ti fa scordare moltissime cose. Quando sei in questo territorio ritorni ad apprezzare quelle che sono le cose semplici della vita, quindi è un'esperienza che tutti quanti dovrebbero fare, ogni tanto staccare la spina da quello che è la propria attività quotidiana ed dare qualcosa anche agli altri. Io lo consiglio come esperienza di vita a tutti quanti, anche a Filippo Rioso, quando vuoi. Io sarei felice. Stiamo attivando nell'ospedale di Ruvigi anche un collegamento Skype, stiamo facendo montare una parabola, quindi potremmo anche fare dei collegamenti in futuro col personale che andremo a distaccare in quella struttura sanitaria. Diceva anche Arduino che vuole venire anche lui, insomma, in Burundi. Beh, glielo lasciamo lì così, insomma. Gli può spiegare come si funziona la radio. Battute a parte, è una bella esperienza. Angelo Angelo è pronto a dare il suo contributo. Devo dirti però anche che avendo lasciato, si porta tutto quello che è possibile, abbiamo lasciato in diciamo i vertici delle istituzioni italiane, ma anche lì abbiamo incontrato il vertice dell'istituzione burundese. Abbiamo avuto un incontro, come ti ricordava prima, il presidente Cirillo con il presidente del Burundi in un villaggio durante la campagna elettorale, poi lui è stato riconfermato e siamo finiti nell'edizione della sera come notizia di apertura dell'edizione dei telegiornali di Bujumbura locali. Quindi devo dire, c'è anche attenzione nei confronti del San Raffaele da parte delle autorità locali. Persimonamente che ne cura i rapporti non è semplice, perché i tempi della burocrazia sono molto dilatati in Africa, ancora più dilatati rispetto a quelli italiani. Beh, infatti noi siamo il nord dell'Africa, quindi voglio dire, lei ha un compito. Il nostro domani sicuramente non è il loro domani. Perfettamente, lei ha un compito. Questa differenziazione. Sì, sì. In che senso? Noi se diciamo domani ci sentiamo telefonicamente domani. Non si sa l'ora, però ci sentiamo domani. Il loro domani non è un domani. Ho capito. Io tra il prossimo terremoto non si sa. Arrivano domani i permessi, domani poi ti chiami dopo un mese. Sì, ma ancora, ma poi chiami dopo due mesi, dopo tre mesi, quindi ci vuole sempre una attenzione, un'attività quotidiana. È un domani al cubo, insomma, non si capisce, sì. Se, no? Sì. C'è molto dilatato nel tempo, ma chissà noi siciliani da cosa abbiamo preso il nostro modo di essere così pacifici e nelle lungaggini burocratiche. Non ti rispondo. Qualcosa di arabo ce l'abbiamo anche noi di Sudafrica, no? Sì, mi piacerebbe parlare un attimo, di tornare sull'argomento della posa in opera vostra. Quindi con i containers vi arrivavano il materiale dall'Italia, no? E poi materialmente come funzionava la cosa? Vi arrivano con i mezzi di trasporto, no, su gomma? Come no, funzionava? intanto molta difficoltà per questi container, lì la burocrazia è una cosa paurosa e lì tutti attendono se magari gli fai un regalino o qualcosa in modo tale che sbloccano questa realtà Ci lamentiamo nelle nostre Italie. No, è peggio qui di qua. Qui prendono 13 milioni di euro per fare, voglio dire, per gestire un partito, lì prenderanno molto meno, qualche centinaio di euro, insomma. Però vedo che l'operatività è uguale alla nostra, non ci stupiamo dunque, Lombardo? Assolutamente no. Prendiamo da te. Assolutamente no, uguale no. come modus operandi. Infatti devo dire che per una struttura come il San Raffaele che cerca di camminare sulla linea retta e fare le cose in regola è molto difficile. È molto difficile. La dottoressa Menta veniva sarà al telefono giornate intere con il referente che abbiamo su Bujumbura per cercare di capire quando arriva, come arriva e chi lo prende quando passa la dogana. Parla rigorosamente inglese o francese? No, il francese. Francese. La maggior parte è francese. Ecco, voi parlavate tecnici, parlavate francese. Ah, perfetto. E quindi lei è costretta anche. Il referente sì. Locale che si trova lì a Bujumbura ha un referente italiano. Ah, meno male. Quindi, facciamo questo alto sforzo burocratico di imparare una lingua in più. Posso scambiare una freccia a favore della. Prego, ma come no? Ma ci mancherebbe. Bujumbura. Parliamo quindi Burundi, la capitale. Terzo mondo, capitale, area subequatoriale dell'Africa. A Bujumbura in quasi tutti i locali c'è internet e un wifi libero. Ah, vedi? Cosa che ancora io l'altro giorno sono stato a Bruxelles, capitale dell'Europa. Non esiste. Capitale dell'Europa, in un albergo. Ancora dovevo andare a pagare il wifi per la connessione internet. A Bujumbura, Africa centrale, paese del terzo mondo, il wifi solo nella capitale, però perché poi del resto non c'è più niente e lì è libero, quindi alcune cose sono molto più avanti di noi. A giro una domanda mi sorge spontanea, ma loro hanno coscienza che vivono in un mondo a sé stante rispetto all'Occidente, rispetto all'Oriente stesso, perché comunque i paesi arabi sono molto ricchi, l'est europeo comincia a risorgere un po', l'Europa, insomma, l'Occidente è sempre stato all'apice, no, dei movimenti economici e quant'altro. Secondo voi i cittadini di questa nazione, ma soprattutto quelli che voi avete incontrato nella fattispecie, hanno coscienza che c'è una diversità enorme, c'è un ponte enorme tra l'Occidente e loro? No, secondo me no, non sanno. un sanno altra vita, secondo me non lo conoscono. E come te... noi non conoscevamo la loro vita. A cosa danno maggior valore lì? Non certo i soldi, credo. No, no, assolutamente no. Secondo me al mangiare quel po' di riso che riescono a fare, a qualche frutto e a niente. Neanche vestite loro. Tu riuscivi a interagire con loro, a parlare, a farti capire? O... Sì, eh? Sì, sì, sì. E sì, perché parlano il francese anche loro. Quindi vi capivate. Senti, la giornata tipo dei tecnici, a parte andare lì, c'è un discorso anche di caldo, se non caldo, caldo pauroso, un caldo 40-50 gradi. No, no, arriva a 40 gradi. 40 gradi. Ma è percepibile 40 oppure c'è umidità come da noi? Non credo. Sì e no, alcuni giorni che era cupo c'era molta umidità. E alcuni giorni invece il cielo sereno, allora un caldo pauroso. Come affrontavate queste problematiche? Allora, di mattina noi andavamo lì in ospedale per lavorare e tutta la giornata. Iniziamo a andare dei problemi, poi fino alle 4, le 4 e mezza, poi la sera smettevamo di lavorare e ce ne andavamo, dico la verità, a bere un po' di birra. Ah, complimenti. Sì, però, quella birra che fanno loro lì, è una buona però calda, calda. Senza frigorifero, insomma, calda, come no. Natura crea, ci conserva, sì. La giornata era così, poi arrivando la sera lì non è che c'era proprio tutto da mangiare, allora siamo andati in un posticino dove facevano le famose broscette, signore, dei pezzetti di carne fatti non al fuoco, al fumo, perché lì fuoco neanche lo sanno fare. Come il formaggio da noi. Allora quella carne, dico la verità, è messa con caldo, 40 gradi, perché lì non c'è né luce e né acqua dove noi andavamo. Allora le mosche sopra. Allora il primo giorno noi non le mangiamo, il secondo giorno no, assolutamente, ma il terzo giorno ci siamo abituati anche a loro. E poi quasi tutte le sere. Però avete fatto sicuramente. È una cosa straordinaria, bellissima. Avete fatto sicuramente delle vaccinazioni, no? Preventive. Sì, sì, sì, ecco, sì, qual... sì. Allora, diamo un suggerimento. Chi vuole andare in Africa in generale, ma soprattutto in questi paesi, non diciamo il Sudafrica perché è un po' più evoluta rispetto agli altri paesi, ma chi vuole andare in Kenya, chi vuole andare in Burundi, eccetera, quali sono le vaccinazioni, la profilassi da farsi? Guarda, ti risponde sicuramente che... Prego, dottoressa. L'organizza ogni volta. Ah, ecco, allora, lei si occupa anche della vaccinazione dei tecnici. Allora, sicuramente la vaccinazione contro la febbre gialla e la profilassi antimalaria pochi giorni prima della partenza e poi durante la permanenza in Burundi. In Burundi. In Burundi, sì. Prima di fermarci per una pausa, poi passiamo i saluti perché sono già le 13, devo dare ancora alcuni sponsor, ma avremo ancora un pochino di spazio per interagire. Dottoressa, lei è anche una psicologa, sì. E questo insomma la dice lunga. Secondo lei l'essere umano che parte, come diceva prima l'amico Vincenzo, dall'Occidente con la casa, con i riscaldamenti, la televisione, tutti i comfort possibili, ma che impatto psicologico ha nel momento nel quale si trova allocato in una situazione totalmente diametralmente opposta a dove era prima, quindi questo stravolgimento di territorialità, chiamiamola così. Sicuramente l'arrivo in Burundi o comunque in un paese come il Burundi, quindi che vive questa povertà assoluta, fa sì che ogni persona che arrivi lì si spogli un po' dei bisogni secondari che la cultura, comunque la società occidentale impone. Quindi ti rendi conto di non avere bisogno di tutto ciò di cui hai bisogno quando sei qui, quindi quando vivi a casa tua con tutti i comfort. E quindi i tuoi bisogni diventano sicuramente bisogni primari, quindi il mangiare e il bere. Un po' comunque i contraccolpi psicologici non è che siano stati tremendi, perché vedo che lui è molto felice. Ritornano sempre molto abbronzati, più belli. senza la voglia di ritornare in Africa, perché poi è vero che c'è questo mal d'Africa. I primi tempi ti manca tutto questo. Ti manca, no, io ho sempre amato, devo dire, ho avuto il grande onore. Grazie a un grande regista, che è il regista ufficiale di Gheorgheo, adesso forse non lo fa più, si occupa più di cinema, che è Daniele Cini, il quale un giorno mi disse: dobbiamo andare per Gheorgheo a fare delle riprese sul Kilimanjaro, quindi forse in Kenya, adesso geograficamente non so dove è allocato, cioè non mi ricordo dove è allocato, e andammo. Per cui dico, da quel giorno io ho una compagna che si occupa di decoupage, fa molto decoupage, gli feci fare un albero, sai quei pini enormi? Bellissimo, con sotto, se viene a casa mia te lo faccio vedere, ce l'ho proprio all'entrata, e guai che me lo tocca, non ha un valore economico assoluto, ma ha un valore affettivo meraviglioso. Perché questo tramonto, no? Con un indigeno, possibilmente sarà un batusso, perché lui l'ha fatto molto alto, con questa arancia che si ripara dal caldo sotto questo pino enorme, ed è qualcosa di straordinario. Diceva bene prima Vincenzo, forse perché siamo più vicini all'Africa, forse perché nel nostro DNA c'è una parte di Africa, ma sicuramente l'Africa è un qualcosa che ci trascina dentro, perché forse le nostre origini ancestrali sono di quelle zone, sono di quelle parti. Ecco perché amiamo tanto l'Africa, secondo me. Beh, ci sentiamo vicini, siamo più a sud, siamo forse la regione più a sud dell'Europa, quindi ovviamente c'è questo contatto con il mondo africano. Prima di farti andare in pubblicità e in sponsor, mi fai dire due cose, così la gente che ci ascolta da casa ci può anche seguire sulle attività che facciamo come San Raffaele. Noi abbiamo attivato una pagina su Facebook, diciamolo, come c'è anche la pagina di Facebook della radio che si chiama San Raffaele Giglio per il Burundi. Col PR scritto X, San Raffaele Giglio per il Burundi. Se andate su quella pagina vedete le ultime foto che hanno dei lavori realizzati da Vincenzo Cefolù e da altri collaboratori che sono ancora in Burundi, in Africa. Vedete lì quelle foto di cui abbiamo parlato durante questa mattinata. E poi abbiamo anche una pagina su YouTube che si chiama San Raffaele Giglio, youtube.com/San Raffaele Giglio, dove trovate i video che abbiamo realizzato con alcune interviste a personaggi locali che abbiamo realizzato quando siamo andati in Africa. Per non concludere, quindi per non farti andare in pubblicità, diciamo che abbiamo anche realizzato una mostra permanente che si trova nella galleria, noi la chiamiamo Del Vento, del San Raffaele di Cefolù. È una mostra con una ventina di immagini molto belle, devo dire, che raccontano un po' la vita del Burundi, della sanità, come si vive nell'ospedale, come vivono gli abitanti burundesi, come si coltivano i campi. Quindi è una mostra che può darti uno spaccato di quello che è questa realtà. Andatela a vedere. Cioè, per la prima volta non andate in ospedale solo perché avete un problema, per visitare la galleria, visitare anche questa mostra. E io vi invito a farlo perché li ho visti più di una volta e sono delle immagini veramente esileranti, molto belle da vedere. Detto questo, io devo dare ancora gli ultimi sponsor, uno dei quali è la Perla d'Engio, ed è una perla sul vero senso della parola. Sotto Gangi, a pochissimi passi da Gangi, che di sera illuminato sembra un albero di Natale, poi oggi sarà anche innevato, quindi un aspetto scenografico, un impatto scenografico straordinario, c'è la Perla di Engio, che è un parco hotel sala ricevimenti. Ci sono molte stanze, c'è una sala ricevimenti enorme, anche qui cucina tipica siciliana, ma soprattutto internazionale. Lo potete contattare perché per i vostri matrimoni, per le vostre convention, anche per le prime comunioni, ma soprattutto per il vostro relax. Chi vive in città e vive sotto stress, è un tocca sana andare alla Perla di Engio, che è poi una struttura in stile Liberty con tanto di piscina e sembra la Casa Bianca. Vi assicuro che è un impatto meraviglioso nel vedere, soprattutto di sera quando è illuminato, e potete passare un weekend di tutto riguardo, non spendendo manco tanto, anche perché la Perla di Engio, pur essendo un parco hotel sala ricevimenti a 4 stelle, è veramente un qualcosa di eccezionale. Peccato che non siamo in televisione, avrei fatto inquadrare l'immagine. Poi, per chi vuole fare delle porte d'interni, bisogna andare a Castelbuono, e ricordate bene questo marchio 2M, Porte che arredano, di Mario Marguglio e Vincenzo Allegra. L'esposizione la trovate in via Cavour 74, la produzione è incontrata a San Calogero a Castelbuono. Vi do il telefono perché, e questo è importante, prendete nota, perché senza appuntamento non ricevono nessuno, sono talmente oberati di lavoro che non hanno il tempo di ricevere altre persone, per cui telefonate prima allo 0921 677012, ripeto 0921 677012. E cosa trovate lì? Diversità di porte, una vasta gamma, le porte di ciliegio, di rovere, poi le porte in rovere massiccio, pensate, a 600 euro più incluso il montaggio, lo trovate soltanto a 2M di Castelbuono, le porte fuori misura, e poi se volete arredare la vostra cucina con una cucina tradizionale, beh, la 2M è in grado di farvi anche l'arredo casa, la camera da letto anche al soggiorno, e finire poi in una cucina che vedete crescere sotto i vostri occhi. L'importante è conoscere i 2M. Esposizione via Cavour 74, produzione contro la San Calogero a Castelbuono. in provincia di Palermo. Evidentemente il telefono 0921 67 70 12 è importante che li contattiate prima, perché altrimenti non vi ricevono. Vediamo che altro c'è. Sì, dunque, lo so, siamo in strettezza economica, ma anche quando c'è strettezza economica un regalo vale sempre la pena di farlo. Se un regalo è un gioiello, un orologio, perché no, resta indelebile nel tempo, nella memoria di chi riceve il regalo e di chi lo fa, è un famoso detto. Piscitello Preziosi, in via Corso Umberto 1 a Gangi, telefono 0921 644 327 oppure www.piscitellopreziosi.com, così avete idea di cosa stiamo parlando. La gioielleria, ragazzi, solitari con Cometa Gioielli, Nardelli e Donna Oro, gli orologi da Sector, Philip Watch, Junker e Brusson, per andare poi ai prodotti, insomma, della Fission, che sono Guess Nominate Acciaio, orologi in acciaio che sono secondo me i migliori, Alviero Martini e Roberto Cavalli. Poi le linee capezzale da letto, olio su tela, lo trovate esclusivamente da Piscitello Preziosi. Andatelo a trovare, fate un buon acquisto, magari non spendete tanto perché i tempi sono quelli che sono, ma perché un orologio non si può regalare alla vostra amica, alla vostra mamma o a qualcuno di gente che amate di più a questo mondo. E allora bisogna adesso, mi arriva nota l'agenzia, ristorante Kenzia al Trappito, via Bordonaro a Cefalù. Dunque riapre venerdì 10 febbraio, per cui c'è anche l'inaugurazione, dove potete ammirare la bellezza del mare anche in inverno su un magnifico terrazzo al chiuso e riscaldato. Allora, poi Brass, Corso Ruggero Cefalù, sconti fino al 70%, rinnovazione da Brass con gli sconti del 70%. Allora, vi ricordo, il Kenzia al Trappito lo trovate aperto a partire da venerdì 10 febbraio e vi potete insomma gustare tutti i piatti tipici che questo ristorante fa, al chiuso ma sul terrazzo sul mare, stupendo. Anche d'inverno vedere il mare agitato non è poi così terrificante, può sembrare un quadro van goghiano, perché no, facciamolo. E poi vi ricordo invece il Brass, che vi fa degli ottimi sconti pari al 70%. Questo me lo tengo per la fine. E allora, ultimo giro, facciamo una pausa musicale? Sì, facciamo una pausa musicale, mandiamo un disco. Finalmente piove su di me, la pioggia copre questo piangere. In contrasto grandi amanti scoprono la notte e il giorno e scivolano. Se fossi grande come il cielo ti avvolgerei con il mio spirito. Ma sono stato meschino e sto fermo aspettando la notte. Ma sei come un raggio di sole che irradia tutto anche se stai in me. E vedrai che meglio di umani scriverai che se il cielo è blu e per te ci sei tu. Finalmente piove su di me, la pioggia copre questo piangere. Resta sul silenzio e tra le mani solo ricordi di questo piangere. Piangere, piangere, piangere, piangere, piangere, piangere, piangere. Ma sei come un raggio di già copre questo piangere. Pubblicità.

quindi bambini che aiutano di fatto altri bambini, visto che noi andremo a fare un'area materna infantile. Posso lanciare, se la regia mi alza un pochino l'audio, posso lanciare una provocazione, non è una provocazione ma io la chiamo così, non sarebbe anche bello se ci potesse essere uno scambio, no? Che alcuni ragazzi nostri andassero a incontrare i loro coetanei lì e prendere coscienza di quel mondo, e che quei coetanei di lì venissero qui a prendere conoscenza del nostro mondo. Vincenzo, che ne pensi? Io guardo la faccia di Vincenzo Cefalù, che c'è stato. La dice molto, la dice lunga. Che diciamo i nostri... Un trauma forte secondo me sarebbe. I nostri, diciamo... Ma regaleremo un po' di felicità a questi ragazzi, no? Anche se li sciocchiamo per molti aspetti. Lo scambio che loro potrebbero venire qua, sì, gli farebbe secondo me restare sbalorditi, ma invece bambini nostri di qua a partire lì a vedere tutta quella fame, quella... Sì, però secondo me, sai, sarebbe come dire un po' di educazione civica per far capire che quando qui battono i piedi per avere la cioccolata, per avere il giubbino firmato eccetera, lì si renderebbero conto che tutto questo è veramente inutile. Lì non esiste, lì neanche le scarpe esistono. Solo per come educazione, voglio dire, come forma di impatto, per far capire che insomma non c'è la televisione, non c'è la luce, non c'è il frigo, non c'è il motorino, non c'è la slot machine, non c'è nulla di tutto questo. Vai. Ma c'è soltanto uomini, esseri umani, punto e basta. C'è anche un problema di sicurezza ancora, perché il Burundi è un paese in via di evoluzione e di sviluppo, esce fuori da una guerra civile che lo ha lacerato per diversi anni, adesso c'è un minimo di stabilità con questa nuova presidenza, ma ancora ci sono dei conflitti interni, i piccoli focolai che ogni tanto si manifestano. Quindi mandare dei bambini ancora in questa situazione così particolare. Ma anche voi rischiate, se vogliamo. In alcuni periodi dell'anno noi abbiamo posticipato lo scorso anno una missione perché c'era stato un'avvisaglia di un principio di nuovi conflitti civili a fine del 2011. Il presidente di quale etnia è? Credo che sia Hutu. Hutu o Tutsi? Non lo so. Lui era un ex guerrigliero. Addirittura. Un ex guerrigliero, tu lo vedi bello impostato, una persona di grande presenza, uh-huh. Che poi insomma ha cambiato diciamo il regime e sta cercando di portare il Burundi verso una democratizzazione del paese, diciamo, di pacificazione, e chiede di fatto aiuto agli stati che hanno le possibilità per portare istruzione, formazione, di cui in Burundi c'è veramente bisogno. Diceva prima Vincenzo Cefalù che gli operai con cui loro si interfacciano non sanno quello che devono fare, glielo devono spiegare, ma anche per gli infermieri. Se tu due giorni prima, lo abbiamo constatato con il presidente Cirillo, coltivavi la terra, due giorni dopo eri in una sala operatoria. Quindi loro hanno bisogno di formazione, di istruzione, di apporto di know-how da questo mondo occidentale, hanno bisogno di iniziare anche a fare sport. Mi ricordo che nella margine della conferenza FAO di Roma il presidente Nkurunziza diceva proprio abbiamo bisogno che i nostri bambini impaiano a fare sport, non lo fanno. Beh, è normale, non essendoci strutture, non essendoci istruttori. E quindi hanno una grande necessità di aiuto. Noi stiamo facendo quello che possiamo, una goccia, ecco, in questo, questo mare che non c'è in Burundi. Io credo, no? In ogni cosa di avere un inizio è importante. Se non c'è un inizio non ci sarà mai un'evoluzione, non ci sarà mai un confronto. Sì, bisogna avviarli in qualsiasi cosa, bisogna avviarli perché sono indietro, molto indietro. Allora, magari se ci sarebbe qualcuno che iniziasse a fare qualcosa, per esempio, non ce lavano, ma l'acqua c'è lì, però non sanno come raccogliere quest'acqua. Quindi incanalarla. Incanalarla, magari fare delle cisterne, scavare un pozzo, ma magari di un metro per raccogliere l'acqua, perché non c'hanno l'acqua. Ma lì entriamo poi in un contesto molto più ampio. Bisognerebbe che il governo italiano a quel punto lì mandasse dei tecnici, no? Che istruisse il personale facendo dei corsi di formazione vera e propria e poi accompagnarli, affiancarli durante l'arco della giornata e spiegare loro come fare. Volevo aggiungere una cosa, è importante comunque non perdere mai di vista della possibilità di non entrare a gamba tesa nella loro cultura, ma comunque farsi spazio pian piano, andare irruentamente, perché sicuramente si potrebbero... quindi un cambiamento sì, però comunque contestualizzato alla popolazione. Le faccio una domanda: se dovesse essere chiesto una sua partecipazione per qualche anno come psicologa all'interno di una struttura che potrebbe generare futuri medici, eccetera, quindi come formazione, lei è un addetto ai lavori, sì, una psicologa, lei accetterebbe una missione del genere? Sì, sicuramente. Senza colpo ferire, insomma, sì, la vedo negli occhi. Domani facciamo il contratto per domani facciamo il contratto. Domani allora, in diretta qui con la firma negli studi CRM, no? Sicuramente sarebbe un'esperienza importantissima, toccante, un'esperienza toccante, sì, sì, sì. No, io ribadisco quel concetto lì, guardando negli occhi quella mia amica che fece questa missione, adesso non ricordo qual era il contendere, però guardando negli occhi gli luccicavano di commozione, lei si commuoveva quando mi disse quella frase, pianse, cioè le lacrime gli scendevano agli occhi. Mi disse, tu non hai idea di cosa un bambino africano ti può trasmettere guardandolo negli occhi, tutto l'amore e il calore possibile. Anche dalle nostre, sì, dalle nostre foto, che chi è a casa al computer può già, sguardi toccanti, può già vedere, ti lasciano riflettere. Signori, io è stato un momento toccante anche per me, perché faccio comunicazione, ma mi piace molto quando mi è possibile, nelle mie pochissime possibilità, dare una mano a chi ha bisogno, non ha santi in paradiso, io lo definisco così. L'amico lombardo spesso mi vede in ospedale a fare proseliti, perché cerco di dare una mano a chi questa mano non la trova nel proprio simile, ma non è nulla di straordinario. È straordinario invece quello che voi state facendo, andando a raggiungere un posto totalmente diverso, disagiato al massimo, anche privo di sicurezza personale, se vogliamo, quindi c'è anche lì un momento di frizione tra loro stessi e poi di conseguenza di riflesso anche chi opera in quel campo. Quindi un grazie va detto a voi, che avete il coraggio, avete la sensibilità, avete la voglia di creare, di fare, di seguire, di affiancare. Un grazie va a Cirillo, ma va anche a tutti quanti coloro i quali si sono prodigati, dalla regione che ha dato i fondi, a voi che li avete posti in essere, e poi voi tecnici materialmente che sistemate quello che c'era da sistemare nel maratma più totale, quindi lavorando non in momenti ottimali, ma addirittura straordinari, chiamiamoli così. Quindi io ringrazio l'amico Cefalù, che è stato un tecnico che tornerà, mi pare, in Burundi ancora, sì? Sì, sì, speriamo che ci sarò per l'inaugurazione. Lo dice col sorriso, quindi è molto fiero di quello che ha fatto, aprire, è felice. La dottoressa, sicuramente gli auguro di fare un viaggio disagiato. Grazie a voi però per averci dato l'opportunità di far conoscere il nostro progetto, quindi di portarlo all'esterno del nostro ospedale. Era interessante dirlo ed era importante che tutti lo conoscessero, perché si parla della, grazie, nostra realtà siciliana, di un Fiore all'Occhiello come il San Raffaele, con qualche defiance, ma come in tutte le strutture, dai tribunali ai nosocomi, tutti possono avere dei momenti di defiance, ma io ritengo che il San Raffaele Giglio, senza nulla togliere all'onestà intellettuale di chi ci lavora, fatta salva involontariamente qualche piccola defiance o anche grande defiance, però resta sempre il Fiore all'Occhiello in Sicilia e nel centro sud Italia, di una struttura che aiuta nel quotidiano chi soffre, e spesso ci metto di mezzo anch'io, a risolvere molti problemi di salute. Qualora non ci dovessimo riuscire, a volte l'uomo ha anche le sue deficienze e umanamente bisogna anche capirle. Devo ringraziare anche e soprattutto l'ufficio stampa nella persona del dottor Lombardo, perché è una persona che può sembrare schiva, un po' asettica, eccetera, in realtà è una persona molto sensibile, amico, l'ha dimostrato in moltissimi casi, vicinissimo al presidente Cirillo, col quale magari a volte no, ci si guarda un po' in gagnesco, perché ci sono delle situazioni nelle quali non siete d'accordo su come muoversi, ma conoscendo Vincenzo poi è sempre lui a spuntarla, perché Vincenzo ha un carattere, ma lo fa a fin di bene, non lo fa sicuramente a fin di male. Poi guarda, mi conosci benissimo. No, ma sei molto tosto, insomma, voglio dire, ed è la maschera che indossi, insomma, poi gli amici che ti conoscono bene sanno che tu sei sensibile, sei una persona molto umana, e sei scevra dall'essere gasato, montato, eccetera. Prego. Devi diventare rosso. Sì, dimmi. No, dico la verità dei fatti, come spesso chi impatta per la prima volta in Cirillo può immaginare che sia una persona tutto per conto suo. Tutto no, però spieghiamolo, perché più volte abbiamo lavorato con Filippo ad organizzare eventi, sì, del San Raffaele, quindi più volte abbiamo avuto un confronto su alcuni appuntamenti legati soprattutto a quelli che hanno i problemi oncologici, sì, e della donna, l'automorazione, eccetera. abbiamo avuto dei confronti anche serrati, però sempre protesi affinché al miglioramento e alla buona riuscita dell'evento. Ma ci mancherebbe. Poi... Però questo lo possiamo fare perché tra due interlocutori che hanno come scopo un unico obiettivo, poi alla fine si ci comprende, si ci capisce bene. E poi devo dire, insomma, Filippo, cosa dire, che la voce è bellissima, un'esperienza meravigliosa. Fermiamoci qua, diciamolo, guarda, ha fatto, no, per chi non lo sapesse, però lui viene da un'esperienza nelle radio anche nazionali, voce di ufficiale di programmi importanti, voce di spot pubblicitari che basta che hanno... non stiamo parlando di me, dobbiamo parlare del San Raffaele, chiudiamo. Quando uno accende la radio, abbiamo fatto il primo simposio sul Casino Masseno. La radio quando si ascolta, sì. E qui c'è Angelo che adesso ci rema e si vede, però la radio quando si ascolta spegnendo le luci e restando in una stanza in cui c'è questa voce che ti parla, che ti deve entrare, e tu devi essere, devi creare una relazione con lo speaker che c'è dentro lo studio. La voce di Filippo Glorioso e la capacità con cui riesce a trasmettere quello che lui vuole dire, il suo pensiero, quello che vuol far dire ai suoi ospiti, crea questa relazione. Quindi questo è un complimento ed è una cosa che pochi riescono a fare, Adesso io ringrazio l'amico Vincenzo perché lo dice col cuore, ogni tanto prende per i fondellini anche, io mi faccio prendere volentieri per i fondellini da lui. Io sono una modestissima persona e devo dire sempre grazie comunque a chi ha creduto in me, tra questi Angelo Arduino, che mi ha messo sempre a disposizione i microfoni di CRM Pirelli, e non solo, e la sua stima personale nei miei confronti me l'ha dimostrato nel tempo. Questo mi ha dato la possibilità di far conoscere molte persone da cui sono passati personaggi importanti, meno importanti, comunque importanti per quello che fanno e non magari per l'investitura istituzionale che hanno, e quindi è un arricchimento. Io cosa posso fare? La mia modesta persona è un mezzo con il quale io cerco di far conoscere agli altri, appunto il programma si chiama Carta e Penna, di tutto quello che c'è intorno a noi, nel bene e nel male. Mi auguro sempre in bene. Faccio a voi tantissimi auguri per il vostro lavoro, ringraziandovi a nome del popolo siciliano, cominciamo da qui perché io sono prima siciliano poi italiano, per quello che il San Raffaele sta ponendo in essere, la fondazione San Raffaele Giglio sta ponendo in essere al di fuori dei nostri confini, e sembra un dato positivo e voglio dire ci dà lustro. Per ringraziare anche chi collabora con me alla comunicazione, Vincenzo Cozzino, ed è poi lui saluto anch'io Vincenzo, sì, anche lui poi che va a curare l'aggiornamento della pagina Facebook sul San Raffaele Giglio per il Burundi, si potrebbe... Io invito quelli che hanno amici è diverso da quello che noi ci possiamo immaginare, ma è lontano migliaia di anni lui. Caro, le tasse, abbiamo cose molto effimere, mi sono cambiato la macchina, mi sono fatto la Ferrari. Lì, come diceva prima l'amico Vincenzo, si tocca un aspetto meramente umano, che è quello dell'uomo nudo e crudo, a diretto contatto con se stesso e la natura. Io prima di salutarvi devo ringraziare l'ultimo sponsor e poi passiamo ai saluti, che è la cooperativa ACP di Farinella in Gangi, l'email è santifar79@live.it e lo trovate dove? A Gangi, in via Nazionale 60, il telefono 0921 645044, via Nucleo un pochino per sommi capi, quello che potete acquistare in questa macelleria. Intanto la carne è con tracciabilità madonita, quindi pascoli freschi, nostrani, senza aggiunta di nulla. I salami felini, i salami cacciatorino, il rollo di vitello, la lista al pistacchio, la lista tirolese, gli involtini, e poi per concludere ragazzi ci sono i formaggi, tra cui il caciocavallo affumicato, che è una chicca. A proposito di carne affumicata con le mosche, qui mosche non ce ne sono, però voglio dire è un qualcosa di veramente. Grazie anche quindi alla cooperativa ACC di Farinella a Gangi, andatela a trovare, portate a casa nelle vostre tavole, veramente un pezzo di gusto antico delle nostre madonie. Cos'altro dirvi? Io vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio il Presidente, ci ringrazio il Dottor Vincenzo Lombardo, ringrazio la dottoressa Simona Menta per il suo intervento, l'amico Cefalù, grazie Filippo, Vincenzo, grazie a voi. Filippo, allora, dobbiamo invitare a questo punto, appena apriamo l'ospedale, a venire con noi in questo viaggio per conoscere questa realtà. Sono pronto a una porta aperta. Io adoro l'Africa, amo l'Africa e amo i bambini, quindi voglio dire. E poi raccontiamo insieme quello che abbiamo visto. Molto insieme. Volentieri, accetto di buon grado. Quindi ci riaggiorniamo all'apertura quando del quando vuoi, numeri ce li hai, e poi chiaramente ogni giovedì sai che sono qui a cercare di dare alla gente che ci ascolta, fargli passare un'ora diversa dalla quotidianità. Ringrazio gli ascoltatori che ci hanno seguito sempre con tanto affetto. Ringrazio Simone Brancato, la parte tecnica. Cos'altro dirvi? L'appuntamento è per domenica in differita alle 10.30 circa, noi ci risentite invece giovedì alle 12 in punto, salvo imprevisti di tempo e chiaramente anche di denaro. Senza soldi, senza nafta non si può arrivare. Quindi detto questo, vi auguro un buon insegna di un buon sole, ma spero e credo che non sia così, e comunque ci metteremo intorno a una stufa, intorno a un camino, e ci racconteremo delle belle storie come quelle che qui avete sentito oggi. Grazie ancora, un bacio a tutti da Filippo Glorioso, ciao. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso.